Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, piove sul bagnato è un'espressione che in questi giorni proprio non si può usare per nessuna ragione al mondo. Ma se così non fosse, cadrebbe a pennello forse per Prandelli e per la sua nazionale, che dopo Rossi e Cassano, che sono addirittura in forse per gli europei, come sapete, in quanto si tratta di infortuni o di stop comunque molto lunghi, stamane ha perso anche Giovinco, fortunatamente per un periodo molto più breve, ma in ogni caso che era rimasto uno dei pochi attaccanti sani convocabili per Prandelli. Questa è la prima notizia negativa di una settimana che contempla l'ultima sosta internazionale di stagione prima della volata di fine anno e che si apre, adesso parliamo di cose più interessanti, e che si apre con una classifica incompleta perché priva dei punti in palio tra Napoli e Juve in testa alla classifica e tra Genoa e Inter in coda o comunque nella parte destra, guardando la classifica stessa quando è divisa, quando è impaginata in maniera da star divisa in due. E allora mi pare che qualche numero dica, anzi una statistica vera e propria di quelle che Franco Piantanida mi rifila fortunatamente il lunedì. Allora, è la prima volta nella storia dei campionati che Udinese e Lazio sono in testa alla classifica da sole. Poi è ovvio che c'è il subiudice del recupero Napoli-Juve, ma non era mai accaduto nella storia del calcio italiano che questa strana coppia Udinese-Lazio fosse al comando da sola. In particolare la Lazio torna in testa alla classifica dopo un anno esatto, perché era il 7 novembre 2010 ancora dopo il derby perso in casa con la Roma, in quella giornata la squadra di Reia guidava a quota 22, più 2 sul Milan, che però tre giorni più tardi si prese la testa e poi non la mollò più. Mentre l'Udinese continua il suo percorso netto in casa, 5 vittorie su 5, come il Palermo di Mangia, d'altra parte. Ieri giocava contro il Siena, che non è certamente una squadra di grande grido, ma è una squadra di sostanza e di ottima forma, tant'è vero che veniva da 2 vittorie e 2 pareggi, e si affrontavano in ogni caso in casa dell'Udinese le due migliori difese del campionato, tant'è vero che e ciascuna delle due ha subito gol, persino Andanovic, quella dell'Udinese, che ha subito la prima rete in casa di questo campionato, dove non incassava reti dall'8 maggio scorso in Udinese-Lazio 2-1. Tra l'altro la partita, il confronto diretto tra le due capoliste di oggi, che allora lanciò definitivamente l'Udinese in Champions League a danno proprio della Lazio. Le voci di alcuni protagonisti, a cominciare da quella di Reia. È molto bello stare così in alto e siamo andati al di là delle più rosee previsioni. È meglio stare lassù. Anche se magari l'ho già detto altre volte, è meglio stare così vicino alle prime, a un 2-3 punti. Sai, sei inseguito da tutti, mentre dal di dietro stai un po' più tranquillo. Ma un gruppo solido, un gruppo che sa le qualità che abbiamo e sa anche magari certi difetti. Adesso abbiamo migliorato ultimamente anche la fase difensiva, anche se oggi abbiamo faticato oltre misura perché non eravamo freschi come in altre circostanze, si pressava male, arrivavamo sempre dopo il Parma c'ha buoni giocatori soprattutto in contropiede. Si gode il primo posto Reia, altrettanto fa Guidolin. Tra l'altro il fatto che ci sia una sosta internazionale, c'è un ascoltatore che scrive: ma come, ancora una sosta internazionale? No, ma cosa mi dice, cosa mi racconta? Dico, caro, non l'ho decisa io l'ho già detto altre volte, dipendesse da me, di soste internazionali non ce n'è più. Il campionato finisce un mese e mezzo prima e si fa una lunga sosta tutta per l'Italia nella seconda metà di maggio magari e nel mese di giugno o un po' prima o un po' dopo, non ha importanza. E invece qua si continua a giocare con queste interruzioni di calendario, chissà per quanto tempo ancora, visto che è sempre andata così probabilmente non cambierà. Questo nella fattispecie torna a vantaggio morale, se non altro, dicevo, di Lazio Udinese, perché si possono godere la testa della classifica per una settimana in più. Sentiamo Guidolin adesso. Abbiamo raccolto questa vittoria proprio perché abbiamo fatto una prestazione da squadra, perché avevamo le forze che avevamo, non eravamo brillantissimi, anche se giovedì ho fatto molto turnover e abbiamo preso una bella bastonata a Madrid, ma non l'avrei potuto fare altrimenti, se no questa partita l'avremmo finita in 5. Avevamo tutti un po' di qualcosa da, diciamo così, da farci perdonare, soprattutto per quei 1500 tifosi che sono venuti a Madrid. Proveremo a mantenere l'alta classifica senza illudere nessuno, ma senza nasconderci. Se saremo bravi vorrà dire che ancora per un po' ci manterremo le posizioni altissime della classifica, e intanto ci godiamo questo primo posto che stavolta non durerà più solo 2 giorni, ma durerà almeno fino alla sosta. Eccolo là, il piacere, no? di godersi un primato per una settimana in più. Tra poco i vostri interventi, come sempre, al lunedì all'800 24 00 24. Prima introdurrei quella che è stata ieri i sintomi della polemica di giornata, direi inevitabile, quella legata al rinvio di Napoli-Juventus. Allora sentiamo le due per ricostruire. Insomma, dilungandoci il meno possibile, per ricostruire le due campane, quella napoletana rappresentata dal direttore Bigon. Condividiamo in pieno, soprattutto dal punto di vista dell'ordine pubblico. Sinceramente la situazione poteva diventare preoccupante e anche pericolosa per tutti i 60.000 spettatori. Non dimentichiamoci che non era una partita normale, ma lo stadio era esaurito, quindi sinceramente l'afflusso sarebbe stato molto difficoltoso e problematico date le condizioni del tempo. Dal punto di vista sportivo, sono stato a vedere il campo stamattina, probabilmente ci sarebbe stato anche il grosso rischio che la partita venisse proprio rinviata direttamente dall'arbitro per impraticabilità, perciò insomma dal punto di vista del Napoli è una decisione assolutamente condivisibile. Sì, rimane quel sole splendente che poi ha illuminato Napoli per il resto del pomeriggio e una fantastica luna romantica che splendeva su Posillipo e Marechiaro nel corso della serata. L'altra campana, quella della Juventus, è rappresentata da Marotta. Ma se mi concedete questa divagazione, ritengo che dal punto di vista sportivo noi avremmo preferito giocare, questo senz'altro, perché eravamo in un periodo di forma eccellente e quindi potevamo sfruttare questa euforia, questa convinzione nei propri mezzi, però ci siamo attenuti, ci atteniamo a quanto deciso. Abbiamo appreso la notizia da Sky e quindi ho chiamato immediatamente la Lega, in quel momento la Lega non era a conoscenza. Successivamente ho ricevuto la telefonata da parte del direttore sportivo Bigon, che mi ha comunicato quanto deciso al termine della riunione del vertice che poco prima era stato chiuso, insomma. Stavo riguardando da Sky il magnifico gol di Natale di ieri, come splendido. L'altra parte è stato l'affondo di Klose, da cui poi è venuto il gol della vittoria della Lazio. Tutto questo ovviamente senza dimenticare che esattamente un punto dietro c'è il Milan, che dopo la falsa partenza di inizio stagione è alla quinta vittoria consecutiva, e forse anche di più, comunque voglio dire, sta facendo un filotto di vittorie consecutive impressionante, e soprattutto mi pare che abbia assorbito senza traumi questa assenza di Cassano, che sarà molto prolungata e che quindi poteva rappresentare sin dall'inizio, visto che Cassano quest'anno ha giocato molto e ha giocato bene, poteva rappresentare fin dal suo primo giorno di assenza un problema per la squadra, superato collettivamente ma anche individualmente grazie alla grande partita di Robinho, che da quando è rientrato è andato sempre in crescendo di condizione e anche di brillantezza di giocate, sino ad arrivare all'eccellente partita di ieri. Cernina Antonio da Treviso, buongiorno. Buongiorno signor Grazie. Dica. Io volevo parlare appunto sull'argomento del rinvio di Napoli-Juventus, no? Sì. Io sono un tifoso juventino, però quindi io penso che c'è lo zampino del buon De Laurentiis su questo rinvio, perché la Juve era in un momento di ottima forma e anche non mi sembrava così catastrofico. Io ieri sera ho guardato Atletico Bilbao Barcellona, ha piovuto dall'inizio alla fine. hanno giocato. Beh, hanno giocato in campo, Napoli, sì, però abbia pazienza, Antonio, il prefetto non è che decide l'impraticabilità di campo, quella decide l'arbitro. Il prefetto ha preso una decisione discutibile per il mio, soprattutto perché molto anticipata, ha preso una decisione che si può discutere per quello che per la situazione che c'era al di fuori dal campo, per una situazione legata alla agibilità degli accessi allo Stadio San Paolo e in funzione anche di 60.000 presenze come minimo intorno allo stadio, quindi di ordine pubblico si occupa il prefetto, non certamente di agibilità di campo, e quindi il parallelo con Bilbao e Barcellona non c'entra per nulla, anche perché purtroppo per noi italiani, se noi andassimo al di fuori del San Mamés di Bilbao, ci accorgeremmo che non c'è nessun problema di agibilità esterna allo stadio, cosa che invece dalle nostre parti, e non solo a Napoli, c'è per evidenti ragioni infrastrutturali. Marcello ha chiamato da Milano, buongiorno. Ciao Garanzini, sempre un piacere parlare buongiorno con lei. Mi vorrei menzionare come grandi colpi della giornata anche quel lancio di Ibrahimovic del secondo gol di Robinho, che ha fatto una sventagliata da un polo all'altro del campo, che ho trovato notevole. Proprio sul Milan volevo parlare, anch'io ho visto poi la presa del Barcellona serale. Direi che le due squadre sono abbastanza simili, Catania e Bilbao le metterei abbastanza sullo stesso piano. Io ho visto veramente un grande Milan, e quanto peserà quella non vittoria lì, quel pareggio contro quella squadretta lì della Bielorussia? Perché secondo me, visto il Barcellona negli ultimi tempi, d'accordo, ieri c'era anche il campo, non mi sembra così imbattibile, o meglio, si può pareggiare col Barcellona. E avere due risultati su tre, questo Milan secondo me poteva farcela tranquillamente. Volevo un suo giudizio. Secondo me ce la può ancora fare, perché può provare a battere il Barcellona, che in questo periodo qui non è, adesso non è che sia tanto battibile, non esageriamo, però non è il miglior Barcellona a cui siamo abituati, poi magari tornerà ad esserlo. Il Barcellona autunnale difficilmente è la miglior versione del Barcellona, però non è indubbiamente così irresistibile. Ieri sera si è salvato all'ultimo, ma ha salvato un pareggio, e con questo pareggio adesso è staccato di tre punti, che una partita in Spagna. In Spagna, quando comincia, finora va bene il Levante, il Valencia, eccetera, c'è stato un po' di allargamento iniziale. Poi, quando partono le volate Barça Real, che sono volate prolungate, che durano i due terzi o i tre quarti della stagione, poi dopo tre punti pesano come. E quindi, anche se finora il Barcellona ha avuto in campionato un calendario più difficile di quello del Real, perché ha già giocato a Valencia, perché ha giocato a Bilbao, perché ha già dovuto pareggiare in casa con Siviglia, però mi pare che quest'anno il Barça farà un po' più di fatica a occhio, sia in campionato, e quindi potrebbe farla anche in Coppa. Dopodiché, insomma, stiamo parlando del primato nel girone di Champions, insomma, che è importante indubbiamente per quello che peschi, per l'avversario che peschi, ma insomma non è una di quelle sfide dentro fuori che invece arriveranno poi da febbraio. Fermo restando che il Bilbao, il Bilbao Catania, intanto il Bilbao era in casa, il Bilbao a San Mamés è una di quelle esperienze, no, anche ambientali, che bisogna provare a fare. Il Catania era fuori casa, e il Bilbao gioca in Europa League e ha pure battuto Paris Saint-Germain, insomma, ci andrei pianino con questi accostamenti, anche se Catania sta facendo un'eccellente stagione. Ennio ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno Gigi. Senta, io sono juventino, però sono campano. Sinceramente la polemica è assolutamente fuori luogo. Ieri è morta una persona a Portici perché è cascato un albero, non per allagamento come è successo a Genova. Cioè, le persone, quelle di Treviso, Marotta stesso, si devono rendere conto che quello stadio sta in una città, sta nel centro abitato, non sta fuori dall'abitato. È tutta l'infrastruttura attorno che non avrebbe retto nel caso di qualche acquazzone di quelli pesanti, 60.000 persone, chi ce lo diceva che all'uscita dallo stadio non cadeva un albero, un palo, qualcosa? Vabbè, questo fa parte del destino, relativamente la responsabilità del prefetto è anche valutare queste cose, certo. Non è come partita di calcio, andare a dire addirittura che c'è la dietrologia di De Laurentiis, chi ha pensato, cioè è assurdo. Poi vorrei dire una cosa a Marotta, di una cosa da juventino. Cioè, sa quella cosa di Moretti con D'Alema? Sì, di qualcosa, certo, di certo. Di una cosa da juventino, di siamo la Juventus, andiamo a essere la Juventus quando incontriamo il Napoli, adesso a novembre, a dicembre la battiamo, punto e basta. Cioè, la Juve, torniamo a ragionare da Juve. Sì, allora è evidente che tra il minimo e lontanissimo rischio di che la sera poi ci potesse essere una tragedia, ma un incidente legato allo svolgimento della partita, insomma alla frequentazione, diciamo allo riempimento dello stadio, allo svolgimento della partita, è evidente che ha un senso, e come annullarla anche molte ore prima. Io penso a ogni tanto in questi casi qua, penso sempre che, per carità, è giusto, così è più prudente, così non si sbaglia di sicuro. Poi penso che ci sono strumenti, cioè se già a quel punto la situazione era molto grave, allora non c'è nessuna discussione, dato che mi pare aver capito che era abbastanza grave, ma soprattutto in prospettiva in caso di nuove piogge. Ma insomma, io so che oggi gli strumenti, sto parlando di adesso, di questi anni, non di anni passati, le rilevazioni meteorologiche, all'Arena di Verona d'estate durante l'opera si sa esattamente se la prima goccia cade durante l'aria del tenore del primato o durante quella del soprano del terzo, no? E allora questo mi lascia un pochino perplesso, ma per il gusto di spaccare il capello in quattro, non certamente per una polemica che non ha senso con dei morti di mezzo e con le tragedie che sono avvenute. Giovanni ha chiamato da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Granzini. Ecco, adesso sono un po' più contento perché lei ha spiegato un po' meglio alcune cose sulla partita di Napoli-Juventus, perché all'inizio, appena aveva iniziato, anche un po' gli è scappato anche un po' un sorrisino, sembrava proprio che adesso i dirigenti del Napoli abbiano il potere di fare pressione su un funzionario dello Stato, quindi sul prefetto, per dire sospendiamo la partita perché in questo momento la Juve ci potrebbe battere. A me questo viene da ridere, io sono convinto da tifoso ovviamente del Napoli che il Napoli aveva l'occasione per riscattarsi della partita persa in Champions. Il problema è, quindi dobbiamo stare attenti a dire certe cose, alle informazioni che diamo. Poi lei ha spiegato bene, ha detto che la partita è stata sospesa non per questione di inagibilità del campo, ma per una questione esterna al campo, e chi non conosce Napoli non può parlare, perché non è il caso suo ovviamente, magari è il caso di quel signore che chiamava da Udine poco fa. L'ha spiegato bene il mio conterraneo poc'anzi, che lo stadio San Paolo di Napoli si trova in centro della città, e non so se sanno cosa vuol dire 66.000 60.000 persone per le strade, chi ha avuto la fortuna di esserci sa che ogni piccola cosa può essere un impedimento. Un'ultima cosa, io so che lei certe cose la fanno arrabbiare, e a dire il vero fanno arrabbiare anche me quando si parla che certe persone non dovrebbero parlare. Io credo che si può dire tutto, ma la Juventus, lezioni di stile, lezioni di imbroglio e di altre cose. Era arrivato bene fin qua adesso, caro amico napoletano. Non mi sembra, proprio perché era arrivato bene fin qua, io le tolgo la parola, così almeno lascio un miglior ricordo dell'ascoltatore del suo intervento. No, un po' perché dobbiamo andare, cioè un po' per questo, un po' perché dobbiamo ascoltare come vanno i mercati, e un po' perché c'è una dichiarazione di Prandelli a proposito di quell'episodio che si è visto in televisione, del sorriso di Montolivo a Verona durante il minuto di silenzio. Siamo tutti imbarazzati, ha detto Prandelli. Il giocatore si è già scusato sin da ieri, ma quando c'è imbarazzo bisogna dire la verità. Aveva mal di pancia, ha avuto un sorriso istintivo. Sfido chiunque a credere, dice sempre Prandelli, che durante un minuto di silenzio un giocatore non sia concentrato e che faccia un gesto del genere apposta. Dal mio punto di vista è chiusa qui. È una spiegazione non forse dialetticamente non felicissima, no? Però insomma, io anch'io sarei innocentista in una cosa di questo genere, non posso pensare che un giocatore o non giocatore, ma insomma una persona normale che sa oltretutto di poter essere inquadrata in quel momento si metta a ridere o a sghignazzare durante un minuto di silenzio per delle vittime. Forse potremmo discutere dei minuti di silenzio allora, ma questo semmai lo facciamo in un altro momento, in un'altra sede, lontano da disastri come quelli che purtroppo stiamo vivendo in questi giorni. A proposito di numeri, potremmo parlare anche di quota 7, che è quella a cui è arrivato Dennis, centravanti dell'Atalanta, in materia di gol. E sono l'Atalanta sta giocando un bel calcio pratico, ma insomma mi pare che i 7 gol di Dennis siano decisivi in questi 18 punti che ha messo insieme sino a questo momento, anche se la classifica ne legge soltanto 12 per via della penalizzazione. Dennis è a quota 7 ed è a un solo gol dal suo record personale di 8 con la maglia del Napoli nel 2008-2009, e io personalmente continuo a pensare che sia il Napoli che l'Udinese abbiano avuto un po' di fretta nel liberarsi di questo giocatore. Nel frattempo non si hanno notizie ancora sulla sorte di Mihajlovic, anche se sembra segnata sin da ieri, insomma, dal fischio finale dell'arbitro a Verona. Ed è curioso perché il bilancio della Fiorentina e Mihajlovic è esattamente lo stesso di un anno fa, cioè non che fosse brillante allora, però è lo stesso: 3 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, 12 punti, esattamente quello che la Fiorentina poteva vantare, si fa per dire, un anno fa. A proposito dei 18 punti dell'Atalanta, sentiamo Colantuono. È stata la partita che ci aspettavamo, complicatissima perché il Cagliari è una squadra che si difende molto bene, si abbassano, non danno spazi, e quindi sapevamo questo qui, e allo stesso tempo ripartono molto bene, per cui cercare di fare la partita e non concedere ripartenze era una cosa difficilissima. I ragazzi l'hanno fatto molto bene. Io dico che se fosse stata vera questa classifica, nel senso che i 18 punti li abbiamo fatti, saremmo stati già a metà percorso quasi, perché la salvezza solitamente è intorno ai 40 punti, chiamando 18 eravamo a 2 punti dai 20, dove tutte le squadre sperano, quelle che fanno il nostro campionato chiaramente, sperano di essere o di girare, però non fa niente, ce ne prendiamo 12, la mentalità è quella giusta, una partita, ripeto, complicatissima, però sono molto contento perché la squadra ha fatto molto bene. C'era una sfida a salvezza anticipata ieri in piena regola, che era quella tra Cesena e Lecce, l'ha vinta il Lecce fuori casa, quindi per ora il cambio di panchina al Cesena non è servito per nulla, e la situazione con 3 punti solo in classifica dopo 10 giornate per il Cesena è effettivamente molto, molto complicata. Tra l'altro è da notare che il Lecce a sua volta funziona solo in trasferta praticamente, perché degli 8 punti che ha in classifica ieri le ha consentito di raggiungere l'Inter, ne ha conquistati 7 fuori casa, e nel rendimento esterno finora meglio del Lecce hanno fatto soltanto la Lazio con 13 punti e la Juve con 8, che però, come sapete, ha una partita in meno. Prima di tornare dagli amici ascoltatori, sentiamo il tecnico del Lecce, Di Francesco. Siamo stati bravissimi nelle partite in contropiede, dopo che loro avevano battuto diversi calci d'angolo e calci piazzati in cui eravamo stati un po' in difficoltà. Grande ripartenza, poi abbiamo gestito bene gli ultimi 35 minuti, calcolando che eravamo in priorità numerica, concedendo poco e niente alla squadra avversaria. Abbiamo avuto grande compattezza, anche nel momento di piotta ho visto sempre una squadra corta, anche se schiacciata un po' nell'area di rigore, nella propria metà campo, ha saputo reagire e ripartire alla grande, sapendo che nel primo tempo si può rientrare anche negli spogliatoi mentalmente, dicendo: caspita, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo sfruttato, come spesso ci è capitato nell'ultima. Vi dicevo del raduno azzurro a Coverciano, da cui è già ripartito Giovinco per infortunio, che salterà quindi la trasferta in Polonia di venerdì e poi il match con l'Uruguay, attuale campione di Sud America, di martedì prossimo a Roma all'Olimpico. È stato mandato a Brandelli se Cassano potrebbe essere portato agli europei anche da 24esimo, e la risposta di Brandelli è stata: quando sono andato a trovarlo gli ho detto semmai vieni con Carolina e tuo figlio, cioè sottinteso nel caso non dovessi riuscire a recuperare, perché la tua presenza è importante anche solo per l'atmosfera. Torniamo ai nostri ascoltatori già collegati. Domenico dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, signor Garanzini, una considerazione che faccio, visto ieri per quanto riguarda l'Inter, Ranieri, ho sentito sempre le sue interviste, si lamentava a poco tempo i giocatori con sé per gli allenamenti e quant'altro. Poi ieri, o meglio avanti ieri, è stata rinviata la partita e gli dà 2 giorni di riposo. Come mai? Grazie, l'ascolto per radio. No, fa fatica ad ascoltare, nel senso che non lo ignoravo, non ne ho la minima idea, e penso comunque che ho la sensazione che, insomma, pur essendo più o meno coetanei, se parliamo di allenatori, Ranieri conosca il mestiere un po' meglio di me. Non dico di lei, ma di me certamente sì. Quindi se ha pensato che in questo momento, per tante ragioni, servissero 2 giorni di scarico, 1 o 2 giorni di scarico, non lo so, io lo ripeto, anziché di ulteriore allenamento, di sovraccarico, che credo che sappia quello che fa. Marco Pavia, buongiorno. Buongiorno a lei, Garantini, buongiorno. Io sono un tifoso Atalanta. Che però dovrebbe abbassare la radio, anzi spegnerla, se no c'è un effetto. Sì. Mi scusi, sono un tifoso Atalanta, sì. Sono felicissimo per Denis. Soprattutto quando segna, sembra che c'ha il fuoco dentro, se gli sparano neanche cade per terra, mi sa. Grazie l'ascolto per fantastica radio. Fantastica espressione questa, proprio di cui sentivo la mancanza, grande giocatore, grande centravanti, grande puntero. Ieri ha segnato un gol, ma lui segna da centravanti vecchia maniera sempre, che sono quelli che piacciono a me, no, non gli unici certamente, ma insomma quel genere di attaccante che fa leva sulla forza fisica, ma non soltanto su quella, ma soprattutto che non mollano, perché ieri, dopo le 3 occasioni che erano insomma, che non è che avesse mancato, ma su cui non è riuscito a far gol nel primo tempo, e in tutti e 3 i casi veramente per poco, un attaccante in genere tende un po' inconsciamente, tende magari a scaricarsi. Invece lui non ha fatto nemmeno una piega quando gli è arrivata quella palla giusta nel secondo tempo, ha fatto perno col fisico, si è girato e ha fatto un eccellente gol. Bravo. Massimo da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, sì. Volevo sapere che cosa ne pensa lei di quei bambini viziati e strapagati come Montolivo. A me mi ha dato veramente noia quell'atteggiamento che ha avuto sul campo. E poi insomma la Fiorentina, non lo so, mi sembra un collegio di bambini viziati, non lo so io se mi può dare una risposta a riferimento a queste cose qui. La Fiorentina è una squadra che sta andando abbastanza maluccio, no? In rapporto alle attese, soprattutto quelle dei suoi tifosi, non da oggi. Ho già detto prima, credo a Montolivo, che si è scusato, non sapeva più come scusarsi sin da ieri sera, credo a Prandelli che lo ha assolto. Capisco l'imbarazzo di chiunque abbia visto quelle immagini, perché sono davvero, davvero imbarazzanti, ma sinceramente non si può pensare che una persona normale, mi verrebbe da dire che un cristiano battezzato, si mette a ridere in una circostanza come quella. No, evidentemente è stata una reazione, è stato un atteggiamento strano, incomprensibile, vagale, che ne so, ma non... E comunque io quello che mi sfuggirà sempre è: ma perché? Perché se c'è una se c'è una sciocchezzuola, no? in giro, nel pianeta, nell'universo, noi dobbiamo andare a perdere il tempo ma delle energie mentali, insomma, soltanto per riflettere o per tentare di spiegare queste cose che non hanno senso, sono talmente poco significative, no? Perché va capito che c'è qualcosa di assolutamente involontario in quello. E allora mi sembra che questo accanimento, non mediare, nemmeno mediare, ma questo accanimento di ricerca del particolare ad ogni costo, mi sembra che sia un discreto modo di farsi del male, e soprattutto quello di perdere di vista la centralità dei problemi veri. Antonio Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, chiamo perché diciamo ieri sera un poco deluso dal fatto che non potevo vedere Juventus-Napoli. Qua a Napoli, diciamo, la partita con la Juventus la sentiamo tantissimo, sono tifoso della Juve, quindi per me è il derby. Sì. E involontariamente mi sono imbattuto nel Barcellona e devo dire che sono rimasto proprio, diciamo, entusiasmato da questo spettacolo puro. Poi ho sentito un suo ascoltatore che diceva che il Milan può battere il Barcellona. Io non sono per niente d'accordo, perché ho visto una partita che mi ha pacificato con il calcio, una cosa che diciamo per me che è difficile da spiegare, è fare un regolamento: quando gioca il Barcellona in Europa gioca solo il Barcellona, il ruolo del Barcellona gioca solo il Barcellona. Te ripeto, sono rimasto proprio entusiasta. Grazie Antonio, e pensi che il Barcellona sa far meglio di ieri sera, eh? Con tutto il rispetto per il Bilbao, con le difficoltà che il campo che la pioggia, che tutto questo gli ha creato, partita di grande intensità, di grande suggestione, con dei colpi di qualità eccellenti, ma lei calcoli che il Barcellona normalmente fa anche di meglio. Due mail tra le tante arrivate in queste ore, ma per la verità queste due sono entrambe negli ultimi minuti. Allora, una è firmata Davide, e dice: Davide Colombo, Milano, nome e cognome. Davide Colombo, Milano, scrive: giustissimamente, l'Europa League non fa poi così male se in testa ci sono due squadre che vi partecipano. E questa mi sembra una signora riflessione, di cui ringrazio Davide Colombo. Poi c'è un altro ascoltatore, ho preso due opposti, che invece si chiama Valdimiro Cardi, che scrive: hanno giocato tutto il campionato con montagne di rifiuti nelle strade di Napoli, con gente in rivolta nei quartieri, e allora non c'erano motivi di sospendere per ordine pubblico, ma per la pioggia sì, e viva Napoli e il gran volpone De Laurentiis. Questo l'ho letto della serie Vergogniamoci per loro, perché insomma non si può poi nemmeno scegliere gli ascoltatori, no? che si sintonizzano, cioè libertà per fortuna. Non l'intervallo, no, adesso dobbiamo sentire Nicola Filippone e il suo Sembra Ieri, che tra l'altro, a proposito di ascoltatori, è stato ispirato da una mail, in questo momento non ce l'ho sotto mano, da una mail di un ascoltatore di Cava dei Tirreni, che si è scritto 3-4 giorni fa per impetrare questo anniversario di oggi. Nicola Filippone l'ha accontentato, sentiamo. Sembra Ieri, 7 novembre 1982, colpaccio della Cavese nella nona giornata del campionato di Serie B. La formazione campana espugna San Siro battendo 2-1 il Milan. All'iniziale vantaggio dei rossoneri, firmato con un colpo di testa da Jordan, risponde dopo pochi minuti Tivelli, mentre il gol partita nella ripresa porta la firma di Di Michele. Il KO con la Cavese rimarrà indelebile nella storia dei rossoneri, ma la formazione allenata da Castagnier riprenderà senza particolari contraccolpi la marcia decisa verso la conquista del campionato e il ritorno in Serie A. La squadra campana invece continuerà a sorprendere, fino a sfiorare una storica promozione nel massimo campionato. Beh, questo ascoltatore chiedeva se era possibile questo amarcord anche per consolarsi del fatto che la Cavese è praticamente sparita dal calcio. Massimiliano Paolillo, ecco il nome e il cognome di questo ascoltatore, a cui regalo, anche per esagerare, anche perché me l'ha girata Nicola Filippone, la formazione della Cavese di quel giorno, che era Paleari, Gregorio, Pidone, Bittetto, Guida, Guerini, Cupini, Piangerelli, Di Michele, Pavone e Tivelli. La allenava Santin. Ha chiamato Ugo dalla provincia di Lecco. Buongiorno. Buongiorno dottore, è Ugo della provincia di Lecco. Comunque tifoso della ex Salernitana, sì. Quindi abbiamo fatto il derby con la Cavese poco fa. Volevo dire soltanto questo: a mio non ho giocato a certi livelli, però in certe situazioni mi sono trovato. Quindi, a parte che non penso tutti là. Mi spiace che sia caduta la linea, può darsi che riusciamo a ripristinare il collegamento con questo signore. Nello Santin, l'allenatore Cavese, non ho detto il nome, Nello Santin, scuola Milan e poi campione d'Italia col Torino nel 76 da difensore esterno di destra. Ho dimenticato un'altra segnalazione di Nicola Filippone, che oggi, essendo il 7 novembre, oggi è il compleanno di Gigi Riva, leggenda del calcio italiano, nato a Leggiuno nel 1944. E vabbè, è anche il compleanno più resistibile di, però fa 50 anni, Mark Hatley, che fece sognare una generazione di milanisti, proprio quella appena tornata in Serie A dopo queste esibizioni con la Cavese dei primi anni 80. È tornato Ugo dalla provincia di Lecco. Buongiorno. Buongiorno a lei. Scusi, dica. Che è caduta linea. No, certo. Volevo dire, nella situazione di Montelivolo, capisco, non penso che sia così mosso da fare certe cose, ma io penso che tutti la pensano così. Quindi è soltanto per far parlare per dire cose senza senso. Poi tornando al discorso di prima del ragazzo di Napoli, io la penso così: bisogna sempre provare, tutti possono battere tutti, fin quando non ci non puoi dire di non averlo fatto. Io penso tutto sommato che il Barcellona è stato sferico, però penso anche che il Milan possa battere il Barcellona. E poi, se mi permette, d'accordissimo con le cose che ha detto lei poc'anzi, il calcio è giusto che davanti a certe tragedie si fermi, e anzi mi auguro che in futuro sia proprio il calcio a dare dei segnali positivi. Beh, questo non esageriamo, che già io credo che se il calcio già non ne dà i negativi possiamo esserne abbastanza soddisfatti. Marco da Pavia, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, no, sono di Mantova. Ah, pardon. Niente, se problema. Allora, io il discorso di Montolivo, bravissimo ragazzo secondo me, la leggo in un altro modo. Lui era considerato l'erede, diciamo, del regista della nazionale italiana. Forse non sta rendendo quello che i media e i giornalisti l'hanno appellato anni fa, di conseguenza adesso lo stanno un po' bastonando. Chiuso. Mi sembra singolare, nel senso che non mi pare che sia stato bastonato dai giornalisti, è stato ripreso da una telecamera. Allora, se c'è qualcuno che l'ha bastonato è il cameraman o il regista, che lo hanno inquadrato in un momento infelice, ma non mi pare che poi ci sia stato qualcuno che ha infierito in maniera particolare sul giocatore. Sono quelle immagini che hanno, non so, mi sembra che sia abbastanza strano in certe giornate star dietro a, no? Seguire certi ragionamenti, certi percorsi, certi umori. Torniamo magari a Zambrotta, perché tutto sommato è un revival nel suo genere. Zambrotta che fa gol, non accadeva mi pare da 3 anni, grosso modo, quindi anche se quello di ieri era un gol platonico, beh, comunque a lui ha fatto piacere, lo si è visto da come ha reagito. Io tutto sommato preferisco sempre ancora, credo che sarebbe più sano e preferibile, no? spiare le facce degli atleti quando stanno giocando, no? Che non quando sono magari in un minuto di silenzio, che uno dovrebbe forse anche non accorgersene, perché dovrebbe tenere a sua volta gli occhi bassi. Zambrotta. Sì, non ero abituati al gol, però no, devo dire insomma che oltre al gol, la soddisfazione personale, credo insomma che siamo tutti contenti per la prestazione che abbiamo fatto e per il risultato. Insomma, io di solito quando c'è un cross del genere, insomma, cerco sempre di tenere le mani dietro, quindi il fallo sicuramente non è stato volontario. Di solito, quando comunque in questi casi, di solito, difficilmente l'arbitro fischia, però insomma in quel caso non ha fischiato, quindi meglio per noi. Segnalano ancora un ascoltatore in arrivo, anche se ormai siamo abbastanza vicini alla chiusura. Allora forse sentirei, visto che non c'è ancora, sentirei Mihajlovic dopo la sconfitta di Verona, anche perché, ripeto, questa intervista, quest'ultima conversazione di Mihajlovic potrebbe preludere a una chiusura del rapporto suo malgrado con la Fiorentina. Sentiamo. Siamo in questa situazione, soprattutto io, che praticamente ogni partita è un esame, ecco, però come ho detto sono abituato, perché comunque sono da 25 anni di calcio e come ho detto tante volte cerco di rimanere sempre sereno, tranquillo, equilibrato, trasmettere questa serenità ai miei giocatori e andare avanti con la nostra strada. Non voglio dire nulla alla presidenza della Fiorentina, perché loro comunque in questi un anno e mezzo mi sono stati sempre vicino, mi hanno sostenuto e abbiamo un ottimo rapporto. Perciò loro sicuramente sapranno quello che dovranno fare. Non, come ho detto, sono sereno, ho la coscienza a posto e vado avanti per la mia strada. Poi quello che succederà, succederà. Quello che succederà, così, un presentimento c'è, insomma. Non era Nello Santin, questo mi dispiace per Nello, ma sono contento per Pietro Santin, perché quell'allenatore della Cavese si chiamava invece Pietro Santin, e in effetti Nello era troppo giovane a quell'età per allenare una squadra. Grazie a Paolo Corleoni in regia, a Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio a tutti.